Questo che vi leggerò è una poesia, è un'ottava, in rima, è caratteristica dei poeti popolari. L'ho riproposta insieme ad altre cose anche l'altro ieri, sempre a Zona Rischio, per commemorare la figura di Zaccaria Verucci, un partigiano umbro morto appunto 2 anni fa, e abbiamo presentato diversi pezzi anche del padre, Oreste Verucci. Questa cosa qui sembra scritta esattamente il giorno dopo di Genova, o comunque il giorno dopo di qualsiasi manifestazione repressa con quella metodologia, con quel sistema. Oreste Verucci era una persona che aveva studiato, aveva fatto la quinta ginnasio, che ai tempi era comunque parecchio, soprattutto in un paesino agricolo come Norcia, da quale veniva. E metteva a disposizione della popolazione la sua cultura, quindi magari nell'aia o in piazza si mettevano lì e si discuteva, e lui ci sapeva fare con le parole. Questa poesia si chiama Rivolta. Geme il vil e non si pensava che grande lotta preparasse il mondo e mentre egli tranquillo riposava nel benessere profondo, scosse pur le sue fibre dal tumulto del popolo ribelle che scendea per le strade e le piazze ed un singulto soffocato tacea, un singulto di rabbia mal repressa che violenta esplodea da tutti i flutti. Immensa moltitudine farressa, tutti marcian diretti. Ove va tutta questa marmaglia che si sguinzaglia al fine in ogni parte? Dov'è diretta la santa canaglia che ha l'aspetto di Marte? Ognuno è titubante spettatore di questa sì solenne radunata. Nel ricco Creso s'addensa il timore. Teme l'ira spietata e incede ancora la folla minacciosa, gridando la sua rabbia, il suo furore, or non più calma ma precipitosa, incute il suo terrore. Ed ogni cosa infrange al suo passaggio, ostacoli non vuol l'onda che rompe, tutto spezza e trascina e come raggio incensore che irrompe. Nella sua ardente ira distruttrice, brucia e rovina e sangue e fuoco vuole, chiama la libertà emancipatrice a fatti e non a parole. Grida e canta inneggiando alla rivolta e con rossi vessilli risplendenti a cui i più vigorosi fanno l'ascolta, maestosi e riverenti, trabocca. Nelle strade, così audace e strenua muraglia fa dei petti. Non vuole tregua, non vuol sentir pace. Ciascuno ha tristi aspetti. Si rinserra il potente feudatario, che vede scosso il dominio abborrito, concepire non può un mondo sé vario e rimane sbigottito. E vani preghi fa all'onnipotente, perché cessi il tumulto micidiale. Fa voti d'esser più buono e clemente se uscire può dal male. Vede distrugger sempre, scintillanti, le fiamme vede alzarsi fino al cielo, mentre il fumo quei luoghi circostanti copre di negro velo. Crepitano nel fuoco gli edifici, tutto tracolla tra le fiamme ardenti, insieme coi templi fiaccano gli uffici, infami e fraudolenti. Tutto il popolo vuole che sia spento del fatale passato e non un segno che ricorda il vigliacco soprabbento e che ritener vuol per pegno. Oh santa plebe, oh falange d'oscuri e virtuosi eroi, la vostra storia tramandata sarà in tempi più puri, vi darà onore e gloria. Nel nuovo mondo liberato, intanto, sarà felicità, sarà l'amore. Il diritto alla vita sacrosanto, il bando del terrore. Oreste Verucci, novembre 1934. Terrorista è chi rinchiude, non chi combatte. Io mi chiamo Martino, sono uno degli arrestati a Bologna lo scorso 6 aprile 2011. a seguito dell'ennesima ondata repressiva orchestrata dallo Stato. Operazione che ha portato all'arresto di 5 tra compagni e compagne e all'allontanamento di altri 7 e ad un gran numero di perquisizioni, effettuate peraltro contemporaneamente in più città, e addirittura al sequestro dello spazio di documentazione fuori luogo, che passa dall'essere una sede con distribuzione di testi di critica radicale, organizzava con iniziative aperte settimanalmente, all'essere un inespugnabile fortino di terroristi. Un'inchiesta a cui la procura lavorava da tempo e a cui, a seguito di alcuni attacchi anonimi avvenuti in città nel giro di una settimana ai danni di IBM, Eni, Enil Banca e Lega Nord, ha deciso fosse il momento di dare un seguito, nonostante nel riassunto delle carte che ci è stato consegnato al momento del nostro arresto non ci sia alcun riferimento a questi fatti. Con buona pace per i giornalisti forcaioli. In un clima di linciaggio mediatico, volto ad intimidire le tante persone che si avvicinano alle lotte, arrestare qualcuno era necessario. Perché la polizia c'è, perché la polizia fa, perché tutto sotto controllo. Siamo alle solite, insomma. Ogni manifestazione di dissenso non è recuperabile e deve essere distorta, circoscritta ad una guerra privata tra il potere e i suoi nemici dichiarati per disinnescare la portata sociale e vanificarne il potenziale. Come se tolti i ribelli in questo mondo di merci non rimanessero che docili sudditi persuasi di vivere nel migliore dei mondi possibili. Eppure, per accorgersi di come sia il mondo in cui viviamo, non c'è bisogno di essere sovversivi. Dalla minaccia del nucleare che incombe, alle guerre d'occupazione, dalla militarizzazione imperante alla reclusione dei migranti sul fronte interno. La quotidiana catastrofe della società, del profitto, viene subita da tutti. In tempi in cui la buia rassegnazione che troppo spesso aleggia sulle coste del nord del Mediterraneo viene illuminata dalle insurrezioni che infiammano il sud delle sue coste. In tempi in cui la NATO stende un rapporto Urban Operation in cui i suoi analisti immaginano per il 2020 scenari in cui l'esercito dovrà essere massicciamente impiegato per soffocare le rivolte dei poveri nelle periferie delle grandi città. In tempi di crisi non può stupire se la diffusione dell'ideale anarchico turbi i sogni di chi ci comanda. In realtà, a ben vedere, in una società come questa, quello del nemico interno forse è l'unico ruolo eticamente accettabile. Io non voglio essere complice di una società che devasta il pianeta che lo ospita. Non voglio essere complice di un'economia che per sopravvivere necessita di continue guerre e di ridurre intere popolazioni alla fame. Non voglio essere complice delle guardie che stuprano nelle caserme e nei CIE ed uccidono nelle questure e nelle carceri. Non voglio essere complice di una società che sviluppa nanotecnologie e modificazioni genetiche al fine di controllare e piegare il vivente alle proprie esigenze di profitto. Non voglio essere complice del razzismo che caccia l'immigrato, della reclusione che attende chi non si piega alle leggi di un paese in cui i governi passano, ma le telecamere, i manganelli e i fili spinati restano. Non voglio essere complice di un'ipocrisia religiosa e del turismo sessuale che spesso ne costituisce il contraltare. Non voglio essere complice del massacro continuo di milioni di animali allevati e gonfiati o per alimentare fatturati dell'industria zootecnica che intossica e affama, o per testare di mettere nei mercati nuovi prodotti. Al contrario, saluto e abbraccio chi lotta contro tutto questo. E solidarietà ai compagni in carcere in Italia, in Svizzera, in Germania, in Francia, in Grecia, in Spagna, in Cile, in Argentina, in America, alla gente in lotta per le loro terre e a tutte quelle situazioni di lotta che non conosco. Ancora dalla parte di chi schiacciato da un cielo pumbleo, sceglie di procurar tempesta. Ancora più lucido, ancora più incazzato, sempre a testa alta, sempre presi bene.